voglio che vi rendiate conto di tutti i suoni che provengono dall'esterno della stanza. God damn it, I'd piss on a spark plug if I thought it'd do any good. Con l'ultimo brevissimo estratto di War Games, film del 1983, da cui andiamo a prendere spezzoni in versione originale, si è aperta la quarta parte di Eclettica, per poi proseguire con questo brano che in qualche modo richiama anche i lontani e vecchi Joy Division, però proviene dal Texas, da Austin, dai giorni nostri. Loro si chiamano I Love You But Have Chosen Darkness, se ve le ricorderete, mesi fa furono protagonisti con il loro album Fear Is On Our Side, furono protagonisti per alcune settimane delle playlist di Eclettica, ed ora la Secretly Canadian, a qualche mese di distanza, non ne conosco assolutamente i motivi, fa uscire proprio un singolo, l'11 di luglio uscirà, estratto da quell'album, ed è il primo singolo estratto da quell'album, e quindi sono andato a riprenderlo e vi ho ritrasmesso questa According to Plan, proprio il brano che sarà oggetto di singolo. Ancora qualche scarsa speranza, lo sottolineo, ma ancora qualcuna c'è per andare a vedere gratuitamente i Flaming Lips il 1 luglio a Ferrara sotto le stelle e il 3 luglio a Roma a Villa Ada, scrivendo a giulio@radiorockfm.com. Ora vi lascio con un interessante nuovo gruppo scozzese proveniente da Glasgow, incidono per Chemical Underground, si chiamano The Rosa, l'album ha per titolo Ment, l'album d'esordio e Camera è il brano che ci ascoltiamo. We'll be right back. Or is that a day in the month to be yours now? This refrain. Or is that a month and a year to be yours now? This refrain. Or is that a ground for a near to be yours now? This refrain. Or is that ways to your house in my head now? All'inizio dell'estate, Herbert per K7, un album dal titolo Scale, dal quale ci stiamo ascoltando Harmonize. Prima ci ascoltavamo The Movers and The Shaker, e per la fine dell'estate invece la signora Herbert, Danny Siciliano, con un suo album che è stato annunciato proprio in questi giorni, i cui suoni dovrebbero essere più vari rispetto alla sua prova passata, che anche aveva trovato spazio in Eclettica. E sempre a settembre uscirà anche il disco solista, l'esordio di Kama, che già abbiamo apprezzato tantissimo, io in primis e poi molti fra voi, con Ostello Comunale, singolo che era uscito nei negozi ormai qualche mese fa, che abbiamo continuato ad apprezzare con Icaro, altro brano che avevo avuto modo di estrarre da quello che sarà il suo album che ho avuto grazie all'Eclectic Circus con molta anteprima, e quindi vado avanti nell'estrarre brani fra le 11 tracce totali che comporranno questo album, che immagino sarà omonimo, si intitolerà Kama. Marmitta paralitica, la traccia numero 7, perlomeno nell'ordine che ho qua io a disposizione, è quello che ho scelto per oggi. Te ne stai lì e poi te ne stai lì solo come una marmitta. Sarò tutto quello che vuoi da me. Siedi l'isola del tu te ne stai lì. E tu te ne stai lì. E tu te ne stai lì. E tu te ne stai. Paralitica. Il terrore che sarebbe durato per 28 anni, ma forse anche di più, ebbe inizio, per quel che mi è dato sapere narrare, con una barchetta di carta di giornale che scendeva lungo un marciapiede in un rivolo gonfio di pioggia. La barchetta beccheggiò, si inclinò, si raddrizzò, affrontò con coraggio i gorghi infidi e proseguì per la sua rotta giù per Wycombe Street, verso il semaforo che segnava l'incrocio con la Jackson. Le tre lampade disposte in verticale su tutti i lati del semaforo erano spente in quel pomeriggio d'autunno del 1957 e spente erano anche le finestre di tutte le case. Pioveva ininterrottamente ormai da una settimana e da due giorni si erano alzati i venti. Questo era l'incipit di It di Stephen King. Just yelled eclettica. Where are you, Pablo? I looked everywhere for you. Where are you, Pablo? Why don't you answer the phone? Where are you, Pablo? Why don't you open the door? Did you go to your brother in Stockholm? Did you go to London again? What's going on, Pablo? Tell me what the fuck's going on. Where are you, Pablo? And everything went upside down in a second and I couldn't go back to sleep. And I cannot breathe as long as I got this one hell of a bad disease. And the nightmares came over me again. And my intention was not to hurt you, but I guess that's what I did. And all the times I've tried to explain to you what's going on inside my head. And the nightmares came over me again. You know I need you, I never let you go. I love you, Pablo. You said you'd never leave me. Where are you, Pablo? 25 cigarettes in a chain and I don't usually smoke at all. 25 blocks without a cane and I don't usually block at all. And the nightmares came over me again. And I got some bad motherfuckers to deal with and they came for me tonight. And I'm losing myself to a terrible mess that it's impossible to fight. And the nightmares came over me again. You know I need you, I'll never let you go. I love you, Pablo. You said you'd never leave me. Where are you, Pablo? And you know the little girl I was talking about, she was hanging in a rope. I'm so exhausted and I'm so tired of this, so don't expect from me to cope. And the nightmares came over me again. And I said, shoot me if you really hate me. And then he shot me in the head. And I could see it all happen right before my eyes. And I was lying down there dead. And the nightmares came over me again. You know I need you, I'll never let you go. I love you, Pablo. You said you'd never leave me. Where are you, Pablo? You know I need you, I'll never let you go. I love you, Pablo. You said you'd never leave me. Where are you, Pablo? Questa accolita di pazzerelloni viene dalla Svezia, Billy the Vision and the Dancer, e questo è il nome del gruppo The World According to Pablo. E invece l'album Nightmares, il brano che ci siamo ascoltati in precedenza, le quattro sorelle che provengono da Arcata, California, ovvero sia The Ian Faze, un terzo brano estratto dal loro disco 16 Weeks. L'avevo preannunciato qualche settimana fa, dando anche qualche responsabilità ad alcuni membri della lista nera. Venite, venite con me, vi accompagno all'uscita. Per questa settimana si chiude qua, mie care eclettiche e miei cari eclettici. Vi rimando come sempre alla lista nera, all'indirizzo di mail giulio@radiorockfm.com e anche al podcasting per poter riascoltare quanto più vi è piaciuto. Alla prossima!